Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra. Trinità, Trinità, Trinità. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Bomba, continua a dire il boss, mentre io vorrei solo te, e per questo ucciderei, strage dei capaci e degli eroi. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Bomba tra i piedi cavalcando l'onda di una storia criminale. Rimane una penna con cui sparare, fare una strage per amarti. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. La casetta oggi è piena zeppa, resiste ai blitz e alla muffa. Rappa fanno per la piazza, tutta gente onesta, tutta mezza fatta. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Trinità, Trinità. Negli occhi pistole e fucili, al posto delle palle dinamiti, al posto di parole proiettili, sta musica fa rapine di anima attraverso rime. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Bomba, continua a dire il boss, mentre io vorrei solo te, e per questo ucciderei, strage dei capaci e degli eroi. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Bomba tra i piedi cavalcando l'onda di una storia criminale. Rimane una penna con cui sparare, fare una strage per amarti. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. La casetta oggi è piena zeppa, resiste ai blitz e alla muffa. Retto fango per la piazza, tutta gente onesta, tutta mezza fatta. Mafia, camorra, criminalità, uccidono più loro che l'antifa. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità. Un bacio consacrerà tra i discepoli alla terra, Trinità.